Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, benvenuti. Questa puntata, devo dire che fra i tanti temi che mi stanno cari e che sono correlati all'economia sociale, quella della grande distribuzione è uno dei temi che più mi appassiona e che più mi ha sempre appassionato, perché io credo che nella grande distribuzione, quindi i centri commerciali che hanno avuto ormai una diffusione negli ultimi 10 anni incredibile, in questi luoghi si concentrano le magie e anche gli inestetismi del processo di produzione e di consumo. È lì che la domanda e l'offerta si incontrano. Se le cose funzionano bene lì, il mercato va avanti, i consumatori sono contenti. Se invece qualcosa non funziona, è proprio lì il primo sintomo della malattia. Per questo abbiamo dedicato una puntata alla grande distribuzione cosiddetta organizzata e sentite i titoli del sommario. La Coop sei tu, chi può darti di più? Ma Consumers International, che la premia come la migliore catena della grande distribuzione in Europa. È intelligente la telegestione dei consumi energetici nella grande distribuzione organizzata di Innovazio, al punto da tagliare del 20% la bolletta annuale. Da Striscia la notizia, occhio allo spreco, lunga vita alle botti di rovere rottamate che diventano eleganti sedie e tavoli. Beh, se non altro abbiamo anche di che essere orgogliosi, ora a prescindere dai punti di vista, perché alcuni nella grande distribuzione la penseranno diversamente, ma per una volta avere un premio internazionale, essere primi in Europa, certamente ci fa piacere, perché non siamo abituati ad essere riconosciuti in quanto tale. Claudio Mazzini, direttore qualità di Coop Italia, è qui con noi, buonasera. Buonasera. Claudio Mazzini, sicuramente un titolo per voi importantissimo, ma prima di lasciarla spiegare che cosa vuol dire e perché è maturato, ascoltiamo l'audio di un documentario del grande, insomma, di un regista di peso, Silvio Soldini, che ha realizzato proprio sull'esperienza della Coop. Ausilio, come sapete, noi qua è da tanti anni che lo facciamo, continuiamo a farlo. L'anno scorso è andato molto bene, abbiamo fatto 3.800 spese con 5.500 ore lavorate dei soci, tutti gratuitamente. Se vai a casa la sera stanco perché i problemi ci sono, però la soddisfazione c'è, perché tu quando sei a stasera sai che, ad esempio, come il mio turno è di 20 persone, sappiamo che queste 20 persone, se non ci fossimo state noi, queste qua non avrebbero mangiato. Ecco, qui possiamo vedere quello che è il passato e quello che sarà che è presente, che sarà il futuro degli imballaggi di Coop. Questi sono imballaggi degli anni 70 che ho recuperato, come vedete sono imballaggi molto grandi, molto ingombranti, molto pesanti anche. Poi invece oggi abbiamo soluzioni che incontrano di più del passato il favore del consumatore e confezioni che in qualche modo anche abbattono l'impatto ambientale. Possiamo vedere queste soluzioni di imballaggi che contengono almeno il 50% di plastica riciclata. Possiamo trovare questi imballaggi che sono riciclati al 100%, queste PET riciclate al 100%, le bottiglie dell'acqua minerale e altri prodotti del genere. Si ha il senso proprio che la cooperativa sia una cosa propria, perché sento di poter fare qualcosa per poter modificare il mio territorio. Non sono delle figure gerarchiche, sono delle figure che hanno un sentimento del bello, un sentimento del giusto profondamente radicato nel loro modo di comportarsi, sia nella vita che nel lavoro, perché in realtà il sistema in cui noi lavoriamo è un sistema in cui è difficile staccare l'interruttore. Non è che esista la razza uomo cooperativus, non è questo, però sicuramente le persone che vogliono bene a questa azienda individuano in questo affetto il fatto che l'azienda ti permette di esprimerti nei sentimenti che provi, mettendo questi sentimenti a disposizione delle persone che poi devono assumere delle decisioni, perché non puoi lavorare diversamente da come ti piacerebbe vivere. Non puoi lavorare diversamente da come ti piacerebbe vivere. Non era facile sintetizzare in 2 minuti il documentario di Silvio Soldini. Anita Panizza lo ha fatto, credo che abbia sottolineato il sociale, l'imballaggio, l'impatto ambientale, questo uomo cooperativus e questo essere parte di un meccanismo. Mi ricorda non molto tempo fa la Coop sei tu, Claudio Mazzini, è un'immagine molto forte quella della Coop, e questo riconoscimento internazionale sembrerebbe dimostrare che non è solo immagine. Decisamente sostanza. Noi lo scorso anno la Federazione Consumer International, che voglio ricordare raggruppa 220 associazioni di consumatori di 155 nazioni differenti, ha effettuato un'analisi su tutte le principali catene della grande distribuzione di Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, e hanno preso in esame le politiche di approvvigionamento sia nei paesi, come dire, caratteristici che nei paesi in via di sviluppo. E adesso giudicata la miglior catena della grande distribuzione in Europa è stata Coop Italia, seguita poi da Coop Danimarca, mentre le altre insegne, devo dire, si posizionano molto lontano, in un quadro che complessivamente viene definito deludente da questa associazione. Cioè complessivamente la grande distribuzione non corrisponde a questi criteri di qualità? In particolare per quanto riguarda i rapporti tra la catena e i fornitori e per quanto riguarda alcune scelte uniche che ormai nel 1998 ad esempio Coop Italia ha fatto, cioè decidere di sottostare a un sistema di certificazione e quindi fatta da enti di terza parte che si chiama S8000 per quanto riguarda il rispetto dei diritti del lavoro e per il rispetto di quelle che sono le corrette pratiche di gestione. Questi standard prevedono requisiti relativi alla sicurezza sul lavoro piuttosto che all'orario di lavoro, combattono la discriminazione qualunque sia, stigmatizzano pratiche coercitive, stabiliscono salari minimi. Ecco, io mi ero segnato, in qualche modo discusso, di alcune iniziative che sono particolarmente significative e che possono spiegare in maniera più precisa forse quello di cui parliamo. La filiera ecosolidale, quindi Solidal Coop, e poi la rintracciabilità del pomodoro, che credo quest'ultimo abbia a che fare proprio con l'abusivismo e lo sfruttamento del lavoro. Sì, avere un sistema di gestione ti permette, ti obbliga, tra virgolette, ad affrontare le problematiche in maniera non semplicistica, no? Ma ti obbliga in qualche modo a doverle gestire. Il caso del pomodoro, noi fummo chiamati in qualche modo da Medici Senza Frontiere, che aveva fatto un'indagine laddove il pomodoro si raccoglie e denunciava condizioni igieniche e di salute di questi lavoratori, spesso migranti, che erano disastrose. A quel punto noi ci siamo mossi e abbiamo iniziato tra il 2007 e il 2008 a inserire nei contratti di coltivazione una serie di regole che servivano a tutelare proprio questi aspetti. Abbiamo effettuato un piano di verifiche a sorpresa per verificare che queste fossero rispettate, riuscendo così in qualche modo a inserire a livello contrattuale volontario qualcosa che, mi lasci dire, dovrebbe essere diritto per legge. Su questo fronte magari gli ascoltatori non lo sanno, ma insomma non tutti perlomeno, ma sono successe davvero delle cose incredibili da questo punto di vista. Un'ultima battuta, perché il tempo è incredibilmente veloce quest'oggi. Voi avete anche una piccola chicca, diciamo, sul campo della solidarietà, che è collegata con un grande evento sportivo, con i campionati mondiali di calcio. C'è una maglietta di cui voleva parlarci velocissimamente. Del mondo di calcio in Sudafrica, Coop, attraverso il proprio linea di prodotti Solidal, vuole testimoniare in modo concreto il proprio impegno nell'ambito della responsabilità sociale. Per questo motivo abbiamo realizzato una t-shirt che si chiama Fair Trade Support Africa for Sustainable World e abbiamo investito invece risorse economiche a sostegno di un progetto che si chiama Children for South Africa, che è promossa da un'associazione umanitaria italiana e da una ONLUS sudafricana per l'aiuto dei bambini. E questo secondo me è una testimonianza che è importante, perché si affianca a quegli ormai 100 prodotti a marchio Coop della linea Solidal, cioè che provengono dal mercato transfer, laddove vi sono garanzie di prezzi equi, di prefinanziamenti agevolati e di contratti di lunga durata. Grazie della testimonanza, a presto. E di, come dire, l'orgoglio di questa vittoria, chiamiamola così, potrebbe anche essere di Paolo Fregosi, che è consigliere delegato dell'associazione distribuzione Modena, dell'ADM. Paolo, comunque, e voglio dire, la distribuzione organizzata italiana che viene riconosciuta con questo premio. Certamente, buongiorno a tutti intanto, è sicuramente un riconoscimento di grande rilevanza, di grande importanza, perché pur in una situazione che è ancora molto migliorabile, come sottolineava anche prima Mazzini, si incominciano a vedere dei risultati decisamente importanti e dei riconoscimenti internazionali. Ecco, spieghiamo un attimo, la tua associazione riunisce tutte le grandi insegne, come si chiamano tecnicamente, tutti i grandi marchi, che ormai molti sono francesi, fra l'altro, vero? Sì, Allora, la nostra associazione, ti ringrazio intanto della domanda perché mi dà l'opportunità di raccontare in due minuti scarsi. Anche meno, nel senso che l'associazione di distribuzione moderna è nata relativamente poco tempo fa, 6 anni fa, raggruppa tutte le aziende della distribuzione cosiddetta moderna che operano in Italia, italiane e non, in qualsiasi settore, quindi non soltanto le grandi catene alimentari, ma anche tutte le organizzazioni che operano nel mondo, che so, della moda piuttosto che la profumeria e quant'altro. Gli elettrodomestici, tanto per rimanere. Esattamente. Mm. Sono oggi circa 600 imprese associate, rappresentiamo qualcosa più di 160 miliardi di euro di fatturato, quindi una struttura piuttosto importante che ha lo scopo e l'obiettivo di sviluppare tutte quelle iniziative, quei progetti che hanno un po' nella filiera commerciale il loro sbocco naturale. Ecco, diciamo che è una, chiamiamola così, una sorta di Confindustria della grande distribuzione. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci di nuovo in studio, in Sargante e Traghettatore. Questa puntata a bordo abbiamo esponenti del mondo della grande distribuzione, la Coop, che ha vinto un premio internazionale, Paolo Fregosi, che è consigliere delegato dell'Associazione Distribuzione Moderna. Paolo, anche le librerie fanno parte del DADM? Sì, certo, certamente. Tipo Feltrinelli, tipo Mondadori, Feltrinelli, certo. Che sono protagonisti, vi ricordo, a Torino in questi giorni. C'era il Salone del Libro e lì Radio 24 ha creato proprio uno spazio al padiglione 2 del Lingotto, dove fin da lunedì ci sono programmi in diretta, produzioni speciali, eventi, insomma una festa, una grande celebrazione del libro che, a dispetto dell'era del digitale, comunque è ancora accanto a noi più vivo che mai. E torniamo alla grande distribuzione. Paolo, abbiamo sentito Coop vantare giustamente un primato su temi di responsabilità sociale, che sono sicuramente all'ordine del giorno anche della tua associazione DADM. Sì, diciamo che ci sono due ordini di questioni che si possono affrontare. Da un lato quelli che sono i progetti che riguardano le singole aziende, perché le nostre singole imprese, chi più chi meno, ma in maniera decisamente sempre più rilevante, stanno affrontando questo tipo di argomento dal punto di vista, che so, di quelli che possono essere gli aspetti legati ai risparmi energetici. Per esempio, molti punti di vendita ormai si stanno organizzando a livello di autosufficienza da questo punto di vista, piuttosto che tutto quello che riguarda il riciclo, non solo per quanto riguarda i rifiuti del punto di vendita, ma anche per quanto riguarda le attrezzature che vengono create con materiale di riciclo, dai carrelli agli scaffali, qualunque cosa vi venga in mente, piuttosto che tutto quello che riguarda la logistica in termini di trasporti, per esempio, ma anche quello che è un aspetto non trascurabile come il packaging, che era stato in qualche modo ricordato anche prima da Coop. Packaging vuol dire sia dal punto di vista di quelle che sono le confezioni e quindi le riduzioni degli impatti di queste confezioni, sia fino ad arrivare ai prodotti cosiddetti sfusi e ai distributori di detersivi sfusi e quant'altro, che evidentemente hanno un peso molto rilevante. Grazie Paolo Fregosi, alla prossima occasione, arrivederci. Grazie a voi. Aggiungo a quello che diceva Paolo Fregosi che obiettivamente la grande distribuzione è importante in quanto, avevamo detto poco fa, punto d'incontro di domanda e offerta, ma anche in quanto media, cioè la grande distribuzione dove tutti passiamo sicuramente una volta alla settimana, credo che capiti proprio veramente a tutti, quello è anche un luogo dove si possono lanciare dei messaggi e lo vedremo anche più avanti, ma è un luogo dove si può e si deve sperimentare anche la tecnologia. Fabio Leoncini, amministratore delegato di Innovazio. Salve Fabio Leoncini. Buongiorno. Una delle cose che ha citato Fregosi e che comunque è effettivamente di grande utilità, basta guardare un qualsiasi supermercato per capire che ci sono dei consumi energetici altissimi in un supermercato. Ma certamente, noi dalla nostra esperienza collaboriamo con un gruppo, un pool di acquisto organizzato dalla grande distribuzione, e ci siamo resi conto in questo anno e mezzo di esperienza fondamentalmente che effettivamente c'erano degli spazi interessanti per poter diminuire la ricerca, spazi per poter risparmiare. Ecco, io leggo di voi che siete un'azienda specializzata in un programma di risparmio energetico che passa attraverso la telegestione intelligente dei consumi. L'avete chiamato Smart Market. Ci spieghi cos'è? Perché è curioso come telegestione intelligente è impegnativo come termine. Assolutamente, diciamo che impegnativo sicuramente e comunque siamo in fase ancora sperimentale. è comunque uno schema che si ispira un po' a tutta la nuova letteratura e la nuova indirizzo a livello europeo, a livello internazionale sul concetto di smart grid, quindi reti intelligenti che controllano o fanno rispondere alla domanda a certi impulsi di mercato, a certi impulsi di scarsità relativa di energia o sul sistema. Ecco, voi dite che, mi pare di aver capito, di aver letto, che si risparmia circa il 20% della bolletta annuale con il vostro sistema, ma in parole molto povere, molto comprensibili a chi non è tecnico, come fate a far risparmiare così tanto peraltro? Beh, io le faccio un esempio molto concreto. Lei si immagini per esempio entrare in un grosso supermercato magari un martedì di inizio agosto, dove chiaramente fuori il supermercato c'è una temperatura molto elevata, ma dentro il supermercato magari è un mattino presto, diciamo appena aperto il supermercato, lei si ritrova all'interno del supermercato con poca gente, però già con il livello di refrigerazione impostato, di climatizzazione impostato per poter affrontare la grossa affluenza di gente che arriverà molto dopo. Più tardi. Okay. Ecco, lei già lì, in quel caso lì, si rende conto che effettivamente c'è consumo superfluo di energia semplicemente per il fatto che andare a regolare questi sistemi di climatizzazione in maniera puntuale a seconda di quello che sono le variabili di contesto, quindi affluenza. Va bene, a questo punto cosa succede? Cosa fa Smart Market? A questo punto, in realtà, il progetto consiste nel creare al centro di questa rete di supermercati, quindi questa rete di punti di consumo del prelievo, mettere un centro intelligente di dispacciamento, cioè una sorta di regia centrale, che attraverso la rilevazione dei parametri diciamo rilevanti a livello singolo punto di consumo, ma al centro anche collegato con quello che è l'andamento diciamo dei segnali di prezzo dell'energia, che anche quello si sta trasformando velocemente, modifica l'assetto dell'erogazione di energia. Perfetto. Modifica il consumo, quindi rende dinamico il settaggio, cioè l'impostazione di questi parametri, in modo tale che il consumo di energia segua un po' una logica che non solo compatibile con quello che è il reale bisogno, ma addirittura compatibile con quello che sta succedendo nel mercato dell'energia. Fabio Leoncini, grazie, apprezziamo molto gli sforzi che ha fatto evidentemente per rendere, come dire, comprensibile a tutti, alla fine le confermiamo che ce l'ha fatta. Grazie e complimenti per la sua attività. E noi guardiamo un altro aspetto della grande distribuzione, che è quello del luogo di raccordo e, perché no, l'ha citato Paolo Fregosi poco fa, anche di raccolta. Parliamo di raccolta del PET, ma parliamo di un'azienda, una piccola azienda, credo piccola, che è Oproject, che fa però delle grandi cose, di cui ha parlato anche Striscia la Notizia. Sentite un po' l'audio, ovviamente, di un servizio che è andato in onda qualche tempo fa. Sono in una cantina piemontese circondata da barrique o botti di legno che servono per invecchiare il vino. Sono realizzati in rovere e pensate che si stima che nel mondo se ne producano più di 1,5 milioni all'anno. E invece di finire in una stufa, in una cettaia o ospitare una piantina, queste barrique sono venute qua per diventare qualcos'altro. Appena smontata, non solo ha ancora il colore del vino, ma anche il profumo. Un tavolino singolo oppure uno doppio. Come vedete, tre doghe possono diventare anche una sedia, due di schienale e una tagliata a metà per le gambe. Bastano pochi elementi e tanta fantasia per trasformare le doghe in sedute di ogni genere e dalle forme più svariate. Lunga vita alle buone idee e ai materiali di buona qualità. E occhio allo spreco! Marco Torchio, presidente di Kio Project, salve. Buongiorno a lei. Queste sedie di cui si parlava sono, peraltro le ho anche viste, sono effettivamente belle. E voi fate anche altre cose singolari e belle, altrettanto come dire, originali nel materiale, sedie, borse con imballaggi di cartone. Ma la cosa di cui volevo parlare con voi, che mi sembra importante anche in relazione, sì, al tema della puntata, è il fatto che voi raccogliete questo PET. Che cos'è il PET, sì, e perché lo raccogliete? È il polimero col quale si realizzano le bottiglie dell'acqua minerale, delle bibite. Ecco, è una materia plastica molto performante. E quindi voi raccogliete nella grande distribuzione, in alcune immagino, in tutta, sareste una multinazionale, raccogliete questa plastica e la riutilizzate. Sì, di fatto lei prima ha parlato di Kio Project, che è la società che si occupa della progettazione all'interno di un gruppo di società, ecco, un gruppo industriale ha una società di progettazione che è Kio Project. Kio Project quindi si occupa del progetto, cioè di studiare materia prima, quindi neanche chiamarla rifiuto, con la sua dinamica di formazione, intercettarla in modo efficace ed efficiente e poi riprogettarla per farla diventare qualcos'altro. Che cosa diventa questo materiale plastico? Cestini e carrelli per fare la spesa, diventano casalinghi, da poco sono diventati articoli per cancelleria scolastica. Diciamo che costano poco e che è plastica che, insomma, che non finisce negli scarichi, che non finisce... No, beh, innanzitutto è plastica di grande qualità. La raccolta che noi facciamo attraverso le nostre macchine è una raccolta che garantisce una selezione di qualità, quindi di conseguenza... Ecco, la selezione di qualità è il punto di partenza per avere un, poi un prodotto di qualità. Abbiamo anche scelto di raccogliere la plastica e selezionarla in un certo modo perché la seconda vita dei nostri oggetti deve avere dignità pari alla prima. Non ci piace l'idea che l'oggetto riciclato sia brutto, essere di serie B, che l'oggetto riciclato sia caro, che l'oggetto riciclato sia poco performante. Ecco, i nostri cestini, i nostri carrelli per fare la spesa sono... in più di 4.000 ipermercati in tutta Europa, contro una concorrenza fatta di metallo. Grazie Presidente, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Questo conferma quest'altra esperienza di quale può essere il ruolo di una grande distribuzione. Certo, deve essere una grande distribuzione organizzata, organizzatissima, ma anche sensibile ai temi dell'economia sociale, così siamo più contenti qui a Ferribot, a cominciare dal traghettatore Insargante. Grazie a Danita Panizza in redazione e Paolo Corleone in regia. Ci risentiamo su Radio 24. Vi ricordo che volendo riascoltare queste e le altre puntate c'è il sito radio24.it.